魂込めた一人の男が今日も行く真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。カラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。セガタサンシロ、セガタサンシロ、セガサタンシロ。 Bentornati su Jet Set Radio Cast. Londra chiama e l'Italia risponde. Lo scorso 3 agosto a Londra si è tenuta la Sega Cup Europe 2013, edizione europea del torneo di Virtua Fighter organizzato da Sega con importante montepremi di ben 6.000 sterline. Per parlarcene oggi abbiamo ospiti direttamente da Virtua Fighter BDT, Doc. Ciao, eccomi. E Mister. Ciao a tutti. Doc e Mister, insieme ad altri italiani, hanno rappresentato i colori dell'Italia questa edizione. Quanti eravate di italiani? Eravamo 3 italiani. I due presenti è un ragazzo di Pavia che si chiama Gedel, si chiama Godella. Ok. Confidenti. Perfetto, ma siete andati giù insieme? Abbiamo organizzato un'atta in questo modo. Praticamente, siccome la scena cagliaritana è quella più fiorente riguardo al Virtua Fighter, allora il ragazzo di Pavia è venuto a Cagliari e poi da Cagliari siamo andati a Londra dopo la settimana di riscaldamento. Però fermi un attimo, con più fiorente intende che siamo in due. Normalmente. Ok, questo giusto per chiarire un po' la fiorenza e la grandezza di Virtua Fighter in Italia. Siamo pochi, ma buoni. Ma dobbiamo dire che la sfortuna è stata anche che Jonka, un altro giocatore che viene da Roma, è venuto anche lui in Sardegna per fare la settimana di riscaldamento, però non avendo trovato prezzi di biglietti abbordabili per Londra non è potuto venire con noi. Lui era iscritto, solo che non ce l'ha fatta con le spese per raggiungere il posto, altrimenti saremmo stati 4 italiani a giocare e secondo me anche lui avrebbe sicuramente passato i pugli, almeno magari vinto una un giocatore mediocre. E com'è andata per gli italiani? Ah, per me male, per loro due è decisamente meglio, soprattutto pensa alla competizione che c'era. C'erano 4 giapponesi, gli europei più forti erano tutti presenti, gente famosa ma un poco pratica come Ryan Hart. I francesi sono veramente competitivi, infatti normalmente si piazzano sempre nelle competizioni europee. Gli inglesi sono veramente forti, mi stupisce che non siano arrivati top 8. Insomma, c'era tanta competizione. Fabrizio, che Mister, è arrivato a top 16. No, top 16. Top 16, vabbè. Posto. Godella è arrivato fra i top 16, invece. Godella top 16, vabbè. Con chi? Insomma. Chi è che usava Godella? Ah, nel gioco lui usa il ninja, ovviamente. Lui usa solo ninja. Qualsiasi gioco che tu vedi, lui usa ninja. E te usavi Wolf, immagino? Io usavo Wolf, mentre quest'altro qui pigiava i tasti mentre usava Sara. Ah, ok. Ci provavo. Ok, dai, raccontatemi un po' com'è stato arrivare a Londra per partecipare a questo torneo. Dov'è che si svolgeva esattamente? Com'era la location? Siamo riusciti a incontrare con tutti i ragazzi europei il giorno prima, quindi il 2. Siamo arrivati di pomeriggio con l'aereo e tutto. Praticamente qua a Londra c'è una sala gioco che si chiama la Heart of Gaming, che è sostanzialmente appunto punto in cui ci si raduna per giocare qualunque cosa, da Street Fighter 3, da Street Fighter 4, Street Fighter 5, qualunque picchiaduro si va lì e si gioca. Quindi insomma, pre-serata di riscaldamento, in cui abbiamo iniziato a conoscere, Mister conosceva già qualcuno perché è stato anche al World Cup di K. Io non conoscevo nessuno, quindi per me è stato tutto. Ok, ciao Lee, tu chi sei? Sai, unire facce con nickname conosciuti su virtofaggio.com. Immagino. Tra l'altro, dov'è che era esattamente questa sala giochi? Trova la zona, non me la ricordo bene qual era. Si chiama, è a North Tecno. E da quanto leggevo, praticamente ci sono i cabinati, dovrebbero essere tutti in free play, paghi l'iscrizione, giusto? No, paghi una paghi solo l'ingresso. Paghi l'ingresso. Ah, buono, molto bene. Paghi l'ingresso, poi ci sei tutto il giorno. Paghi di meno, ovviamente, se arrivi di sera. Dipende però dal giorno della settimana. Fine settimana si paga di più, una roba tipo 10 sterline. In settimana si paga per il giornaliero 7 sterline. Ne vale la pena, ne vale veramente la pena. E per giocare a Final Showdown cosa c'era? L'Xbox? Sì, ci sono sia i cabinati che l'Xbox. Addirittura c'è un cabinato che all'interno è un Xbox, quindi sembra che sia un Velix vecchio stile. In realtà è una sorta di emulatore per qualsiasi tipo di gioco arcade. Infatti immaginavo, perché Showdown si è visto solo su Xbox. Almeno da... Ci sono dei motivi per cui l'hanno fatto in digitale, perché volevano a tutti i costi accontentare la community occidentale di Virtua Fighter, che ha firmato una petizione di moltissime pagine chiedendo a viva voce che l'ultima iterazione di Virtua Fighter fosse convertita. Finalmente la Sega si è convinta a fare questa conversione e l'ha fatto direttamente col Final Showdown, perché ovviamente ai tempi della petizione si stava giocando a Virtua Fighter 5R, ma era stato annunciato il Final Showdown, quindi la Sega ha aspettato l'ultima iterazione e ha detto ok, d'accordo, vediamo l'ultimo gioco, così non fate la stessa scena che avete fatto per Virtua Fighter 4 Evolution. È stata una petizione di circa 500 pagine in formato A4 che è stato portato direttamente al quartier generale della Sega. Però hanno detto ve lo diamo solo in digitale, però così per farmi rispetto. No, hanno fatto, credo che abbiano fatto quello che potevano fare dal punto di vista del mercato. Virtua Fighter purtroppo non è Street Fighter, non è un gioco che ha una grossa, non è un grosso nome, non porta soldi sostanzialmente all'infuori dei campionati giapponesi, quindi per loro quello che conta sono le sale giochi giapponesi e stop. Quello che danno a noi è una sorta di contentino per i fan. Dobbiamo essergli grati anche soltanto per questo, insomma, altrimenti staremo ancora giocando alla versione C del Vanilla. Ok, dai, poi dopo che vi siete trovati lì alla sala, il giorno dopo si è tenuto il torneo. Ho visto che avevano dato anche una borsa con i gadget. Cos'è che c'era? È stata rubata, fantastico. Dentro c'era. Infatti ho letto, mi spiace anche di avertelo chiesto, ma era dovere. No, Mister è stato gentilissimo, mi ha regalato i suoi adesivi che ho qua, mi ha regalato la sua pennina USB e lui si è tenuto il burro cacao, tra roba, insomma. A tutti, per tutti gli iscritti c'era una busta, la Sega, vari gadget, un portachiavi, nel mio c'era una copia omaggio di Resonance of Fate. E avevo anche io, semplicemente che la mia versione era PlayStation 3, mentre la sua Xbox 360. Esatto, era un po' vari, era un po' a chi capitava. Buono però, ma l'iscrizione era a pagamento, dovevi iscriverti prima, come funzionava esattamente? C'era un'iscrizione, richiedeva un nickname, mi pare di aver pagato, quando avevo pagato 10 sterline, non mi ricordo perché. L'iscrizione sulle 10 sterline, ovviamente ne avevo un pochettino di più, però quello era il tanto. Ci si poteva anche comprare un biglietto, come semplicemente, visitato, quindi potevi anche entrare e guardare basta senza giocare. Sì, ovviamente pagavi la metà. Però se volevi giocare dovevi esserti iscritto prima, giusto? Esatto. C'erano dei requisiti particolari. Se volevi giocare al torneo, sì. Se volevi semplicemente giocare così casual, diciamo, nella zona, insomma, bastava il visito. No, mi chiedevo se per iscriverti c'era qualche requisito particolare oppure era libero a tutti l'iscrizione. No, libero a tutti, ovviamente. No, ovviamente libero a tutti. E poi quanti iscritti c'erano? Eravamo una cinquantina abbondante, sì. Poi qualcuno purtroppo non si è presentato causa impegno, comunque sia impossibilità a raggiungere il posto. Treno, non era al centro di Londra, sostanzialmente. Ho tra Enfield, un bel po' più a, un pochino più a nord. Ok, e quindi quanti, come era diviso? Era prima in gironi e poi hanno fatto un double elimination bracket, se non sbaglio. Sì, c'erano i pool dove dovevamo giocare tutti contro tutti, e ovviamente i primi quattro dei pool passavano alla fase di dopo eliminazione. I pool erano da 6, giusto? Pool, sì. Dipende, alcuni erano da 5, altri da 6, altri... Mi pare che fossero tutti da 6, però quelli da 5 era perché non si sono presentati al torneo. I partecipanti erano abbastanza effettivi, almeno una quarantina c'eravamo di sicuro, di più anche, 45. Sinceramente bisognerebbe andare a controllare tutti gli effettivi, perché una volta che sei lì, sai qual è il tuo girone, stai pensando a quello, non stai pensando a... Com'era l'atmosfera che si respirava? Era molto figa. Sì? Era molto figa, sì, sì. C'è una sensazione particolare tra giocatori di Virtua Fighter, un pochino... Siamo un po' una grande famiglia. Normalmente nella scena di picchiaduro leggi e senti di litigi, di gelosie, tutta una serie di fattori che assolutamente io non ho riscontrato. Per me è stata la prima esperienza. Mister, te l'ho detto anche prima, anche a Cannes, ma come prima esperienza per me è stata assolutamente positiva. Nel senso, la gente, tutti, da tutte le nazioni, fantastici, gentilissimi, siamo veramente come se ci conoscessimo da tantissimo tempo. Oppure magari confermo in toto tutto quello che ha detto il Doc, perché comunque sia l'atmosfera è sempre quella, siamo pochi ma buoni, perché Virtua Fighter ha questa caratteristica, ottima delle persone molto intelligenti o dei completi idioti, solo che i completi idioti non raggiungono proprio per mancanza di intelletto i posti dove si radunano le persone intelligenti. Poi secondo me è anche una questione di fascia d'età, più o meno eravamo tutti attorno ai 30 anni, mentre magari in altri giochi un pochino più tra virgolette casual, più semplici, più, non lo so, famosi, non so come dirlo senza offendere qualcuno in giro per il mondo, l'età magari media è un pochino più bassa, quindi è più facile che si, non so, rivelino cose mature, non so. Sono estremamente soddisfatto dall'intera community, persone giapponesi. Stati veramente, sì? Veramente sì, sì. Itazan un pochino ovviamente sulle sue, però... Lui è un po' l'autistico, sì. Però gli altri molto disponibili, anche farti capire, spiegare. Cioè, se non parlavo inglese immagino come ti facevano capire le cose, no, ammazzarti praticamente. No, mi prendeva proprio di mano lo stick, no? Diceva, guarda, fai questo, me lo mimava, lo faceva lui, poi me lo faceva rifare. E poi mi metteva nella situazione di farlo, finché non lo facevo giusto. Poi quando lo facevo giusto mi diceva ok. Si faceva molto più utile di altre persone, insomma. Bene, dai, allora parlatemi un po' dei vostri gironi, proprio delle vostre partite. Ma siccome del mio non vale la pena... Allora ascoltiamo Mister. Esatto. Il mio girone è andato abbastanza bene, sono rimasto molto soddisfatto, ho fatto anche una partita contro un ragazzo che mi ha scagliato fuori a Cannes, non ho vinto ma sono molto più soddisfatto della partita con cui ho giocato questa volta. Sì, Cibitox è stato il giocatore che mi ha buttato fuori la volta scorsa, è fortissimo. Stavolta gli ho dato un po' più di filo da torcere, però il fatto è che i francesi sono veramente più abituati di noi a fare i tornei, quindi quando sono sotto stress, al contrario di noi, non ci viene in mente come analizzare la situazione. Quindi è stata l'unica forse debolezza della community italiana, perché siamo di meno e siamo meno preparati. Il resto del girone le ho vinte tutte, non ho risparmiato nessuno e mi hanno fatto anche un buon complimento riguardo alla mia difesa che era molto buona. Invece Cibitox ha capito esattamente come andare a infastidirmi e come massimizzare questa cosa. Riguardo invece poi la doppia eliminazione, tipo ho eliminato subito il mio antagonista numero 0, perché Unicorn, stiamo parlando di questo ragazzo ti che... ha battuto. Sì, lo so che ti ha battuto, ma tu sei un caso a parte, invece a me non ha battuto, ha preso solo una partita, perché dovevo semplicemente aspettare di vedere quali fossero le sue nuove abitudini. Perché questo è il bello di Virtua Fighter, non è tanto studiare il matchup di quel personaggio contro quel personaggio, ma imparare a capire quali sono le abitudini dell'avversario. Una volta ha capito che lui andava in pilota automatico, aveva un determinato pattern, batterlo è stato veramente facile, non posso girarci attorno. La sfortuna è che che dopo ho contattato Chief Guti, che è un grandissimo giocatore che viene dalla Norvegia, che ha imparato anche dai giapponesi stessi, andando in Giappone, giocando lì, Virtua Fighter fin da tempi immemori. Sì, ha vissuto 3 anni in Giappone, la Chief. Sì, sì, tra l'altro, perché... E conosce molto bene Itazan, perché li ho sentiti parlare, Itazan lo chiamava Kuchisan. Si conoscono e sicuramente a un livello diverso dal nostro. Beh, sicuramente è più abituato, però non è invincibile. No, assolutamente. Differenza proprio che ogni volta lui sapeva quando entrare, una volta che tu impari a capire come devi difenderti contro di lui, allora riesci a trappare le partite. Tranne nel caso di Unicorn, che Unicorn va sempre a caso, e per qualche motivo riesce a farla incavolare durante le partite di free play il giorno dopo. Che è impossibile, perché Cipunti è la persona più serena del mondo, cioè, tipo è felice. Cioè, vedere questo ragazzo ha un sorriso grande, ha 85 denti, lui sorride sempre tantissimo, è sempre felice, anche quando lo picchi, ah, quella cosa è veramente interessante, bravo, e ti fa i complimenti, però contro Unicorn non ci riusciva. Contro Unicorn diceva, come cavolo fai a fare così, è impossibile, non è normale. Sì, ma perché dici che andava a caso Unicorn, chi è che usava Unicorn? Unicorn usava il mio stesso personaggio, ma c'è una storia dietro Unicorn, perché io l'ho conosciuto a caso e ho fatto, ma come mai Wolf? E lui mi diceva, beh, io nel vanilla usavo Jeffrey era molto crudo e violento, solo che questa violenza non la vedevo nel Final Showdown. Poi ho visto Wolf e ho detto, ah, ecco, quello è il mio Jeffrey. E ovviamente non ha capito. No, ma infatti, perché anche sentendo altri giocatori, appunto, parlano che a volte quando si trova un giocatore che forse va un po' a caso, in Virtua Fighter paga un po' di più rispetto ad altre picchiature, no? È esattamente il contrario. No, cioè non paga di più, nel senso, diventa difficile prevedere quello che fai e ti fai nervosire perché capisci che gioca peggio di te, però magari ti può dare fastidio. No. Il punto è quello, è proprio mentale, il punto è uno stato mentale, che io ad esempio non ho avuto per battere Unicorn. Quando vedi che una persona fa le cose a caso, si sta suicidando, è semplicissimo batterlo, basta non far niente, e automaticamente quello ha perso. Il problema è che molte volte uno dice, vabbè, ma lo sta facendo veramente a caso, oppure se la sta tentando, e quindi cerchi di entrare, cerchi di trovare il pattern, ma il pattern non c'è, il pattern in realtà è para e appena si suicida picchialo, para e appena si suicida picchialo, basta. E molte volte si tende a pensare oltre, a dire ok, no, adesso sicuramente cambierà, non farà di nuovo questa scemenza, e invece la rifà e ti prendi una cerica, un terito, ti fa una croma. Infatti, proprio questo che intendevo, magari non ti aspetti che giochi in quel modo lì, perché gli altri giocano meglio, no? Esatto. Infatti poi, se tipo quando io gioco contro degli sconosciuti a caso, poi vado a vedere le partite della top 8, cioè il livello di gioco è completamente differente. Sì, cioè lì si entrano ognuno nella testa dell'altro, e allora in quel caso quello che ha più poteri psichici riesce a vincere. È così che funziona, cioè non ho veramente avuto piacere di giocare... Proprio bella questa cosa di Virtua Fighter, secondo me, no? Sì. Non giochi contro il personaggio, giochi contro un giocatore, contro la persona. Perché l'esempio di nuovo il mio è di Unicorn e Mister, usano tutti e due Wolf. Io ho giocato tantissime partite contro Mister, ho preso tantissimi colpi da su Wolf. Però ogni tanto qualcuno gliela rubo. Insomma, so come funziona Wolf. Unicorn è esattamente l'opposto, io ogni volta mi aspettavo una certa reazione, ma perché vedevo il personaggio, mi aspettavo che lo usassi Mister, invece non lo stava più usando lui. Lo stavo usando uno che non lo sapeva usare e mi ha distrutto. Quindi stesso personaggio, diverso giocatore, completamente, esperienze completamente diverse. Sia nel bene che nel male. E questo si può confermare, non so, anche Putti, ad esempio, che usava Sara, insieme a Bloss, entrambi bravi, però... completamente diverso, non so Fabri se sei d'accordo. Sì, no, Guti forse non faceva molto gioco su rialzo, tendeva semplicemente a fare la combo simil max damage, mentre Blossi tende più a fare i giochini, tipo mi muovo, faccio le finte, voglio vedere come ti muovi e se sbaglia a muoverti in un certo modo, allora entro col danno. Si sono viste veramente una volta che anche online non si ha questa idea, l'ho cercato di scrivere nell'articolo di giocando online, oppure anche soltanto nei piccoli raduni che facciamo, dove in genere al massimo abbiamo 4-5 giocatori, insomma, che sanno quello che sta succedendo a schermo. Quando succede, ci sono questi eventi così grandi, ti rendi proprio conto che il gioco è un'altra cosa, che il tuo livello mentale, non solo di conoscenza del gioco, ma proprio mentale, deve essere diverso, devi riuscire a crescere al momento. È veramente un'esperienza che io personalmente non vedo l'ora di ripetere, insomma, il più presto possibile. Spero veramente che a prescindere dalla Sega, che magari adesso ha fatto questo evento per il ventennale di Virtua Fighter, non so quindi se la cosa si ripeterà mai, spero di sì, ma noi come comunità siamo ormai in contatto quindi con francesi, inglesi, stiamo cercando di organizzare qualcosa per conto nostro. E poi vedevo, mister, probabilmente tu hai perso contro Chef Gutti, giusto? Sì, contro Chef Gutti. E poi sei andato nel loser bracket, sì, ho visto che sei uscito 3-2 tra l'altro, quindi è abbastanza tirato. Sì, stavo vincendo 2-0 contro Machile Sushi, lui ha cambiato completamente il modo di giocare, non so come abbia fatto, io lì sotto pressione non sono riuscito a trovare un escamotage per battere la sua nuova tecnica ed è riuscito a vincere 3-2. Questa cosa non è successa solo a me, è successa anche ad altri, perché comunque sì, anche Godella diceva che sono più forte di lui tecnicamente, però in torneo lui non si sa come è riuscito a mantenere il sangue freddo e a sopportare una pressione mentre io stavo vincendo 2-0. Ma io contro di lui ho giocato il giorno dopo alla sala giochi che c'è lì, le prime tre partite gliele ho prese tranquillamente, ma poi ha visto quello che facevo. Perché comunque usando Sara io ho un personaggio grosso rischio, grosso, guarda. Quindi sostanzialmente io, una volta che entravo per ucciderlo. Lui chi è che usava, giusto per dirlo? Vanessa. Sì. Lui riesce però a un certo punto a capire esattamente quello che fa. Ed è quella la sua forza. Lui mi pare che giochi da novembre scorso, ha preso gioco veramente da poco, però ha questa capacità innata di adattarsi alla situazione in cui si trova. Quindi una volta che vede le due opzioni, ci gioca attorno, senza essere troppo sofisticato, molto crudo, però alla fine quello che fa funziona, ed è giusto così, è giusto che vinca se pensa meglio di noi, secondo me. Poi ho visto che infatti è andato avanti abbastanza, poi è uscito contro Kingo. Kingo usava Oi, giusto? Io ho visto un po' di partite e mi era piaciuto molto Kingo. Kingo possiamo definirlo senza tanta paura, forse il giocatore più forte di Virtua Fighter in Europa, o perlomeno di sicuro in Francia. No, secondo me, io non so il livello americano, forse c'è Gentleman Thief, usa Go, mi pare. No, Gentleman Thief usa Pai e Jean Cujo. Fatto sta che probabilmente Gentleman Thief, se non è a quel livello, più o meno siamo lì, King potrebbe essere tra i più forti del fuori Giappone, secondo me. Perché comunque se la giocava con Chofu, se la giocata con Ass. Sì, infatti contro Chofu che usava Kakarashi, se non mi sbaglio. Sì. Giusto. Sì, io tifavo fortissimo per Kingo, però vabbè, Kakarashi è devastante. Sì, è un personaggio un po' strano, Kakarashi, un po'... È molto è semplicemente atipico, perché mentre in Virtua Fighter, diciamo, ci sono delle basi per tutti, lui ha delle eccezioni, nel senso lui prende, diciamo, i knockdown diversamente dagli altri personaggi, lui non può usare una certa difesa ad un determinato svantaggio perché non gli è consentito. Questa ultima cosa non l'ho capita, scusa, puoi ripeterla? Molto semplicemente, normalmente i personaggi quando sono in uno svantaggio di 5 fotogrammi possono riuscire a difendersi da determinate cose, Takarashi non può farlo, lui ha questo malus rispetto agli altri. Ah, ho capito, no. E in più, molte cose che, data la sua stazza, molte cose che normalmente non sono come naturali lo diventano. Quindi le punizioni, normalmente in Virtua Fighter quando si ha uno svantaggio dove il danno è garantito, insomma, dove un pugno veloce entra, sicuro. E normalmente la punizione è il pugno a calcio, quindi tu puoi dare pugno a calcio, massimo che puoi dare. Su Takarashi in genere puoi far entrare tutta un'intera stringa magari, come può essere pugno, calcio. Lui ha un pochino questo malus, però di contro ha veramente tante opzioni d'attacco e entrambe le direzioni di presa sono utili, ha un lanciere, uno starter per la combo facilmente confermabile, è un personaggio, è difficile difendersi con lui, ma è facile, insomma, che ribalti il gioco. Ma nel 4 perché l'avevano tolto? Non mi ricordo, voi lo ricordate? Beh, il comunicato ufficiale dicevano che non c'era abbastanza tecnologia per gestirlo nel nuovo sistema di rialzi del 4, perché nel 3 i personaggi quando cadevano a terra non potevano rialzarsi subito, nel 4 hanno introdotto i rialzi istantanei, quindi hanno detto no, Takarashi non può rialzarsi sul momento, sarebbe strano vederlo fare il rialzo alla Van Damme come gli altri, visto che non ha addominali. Ho capito, questo è il comunicato ufficiale, va bene. Poi invece nel 5R l'hanno riaggiunto perché hanno avuto il tempo di animare tutte le varie, perché quando si fa una presa su di lui, vista la sua stazza, normalmente l'animazione non è la stessa, come si può immaginare. Visto. L'effetto di molte combo è completamente diverso, insomma hanno dovuto rianimare gran parte del cast per inserirlo, quindi inserire da Crash non significava soltanto un nuovo personaggio, ma significava modificare tutti gli altri, quelli già presenti, per poter per farlo funzionare, insomma. Infatti, cioè, non so, magari è una mia impressione, però mi sembrava che magari su alcune cose, magari proprio il fatto che fosse così diverso dagli altri è stato un problema per King, sennò magari avrebbe vinto, no? No, non pensare. Posso garantire che King ha una conoscenza di tutti i personaggi tale per permettergli di fare comunque sia sempre il massimo danno, o che comunque sia in grado di infilare sempre colpi su rialzo che danno molto fastidio. Non è sicuramente stato il fatto che il personaggio avversario usava un peso massimo, un peso grasso, diciamo così, non è stato quello che ha permesso a Chofu di vincere. Sicuramente Chofu ha vinto perché era molto più abituato a giocare, ha capito come giocava King, perché King è molto bravo, però è monostile, nel senso che il suo punto di forza è essere molto veloce, punire velocissimamente tutto quello che va a vuoto e non andare mai nel dubbio di cosa fare. Cioè, lui prende una decisione molto velocemente e la porta a termine senza alcun rimorso. Sì, il giorno dopo ho visto Chofu poi giocare con tanti personaggi. Praticamente la domenica non è nemmeno toccato da Karashi, ha giocato soltanto con personaggi più o meno a caso. E abbiamo scoperto, siamo rimasti tutti a bocca aperta, sa usare tutto il cast, probabilmente solo Jean Cusio non sa usare, a quanto mi ha detto Atsushi. Però l'ho visto usare Lion ed ero a bocca aperta, cioè era veramente, veramente forte, non riusciva a fermarlo nessuno quando usava Lion. Non ho visto il suo Lion contro Itabashi, però ho visto il suo Lion contro quasi tutti quelli che c'erano presenti all'Art of Gaming e non sono riuscito a fermarlo, molto più che, secondo me, è più forte con Lion che con Takarashi. Non so perché è piaciuto Takarashi dopo per lui. Secondo me perché è anche una questione di come gli calza il personaggio. Anch'io personalmente ci sono alcuni ragazzi che mi dicono che sono più forte, che ne so, con Brad o con altri personaggi. Però Wolf me lo sento proprio mio, mi calza come un guante e non penso che lo abbandonerei mai. Cos'altro possiamo dire sulla situazione in sé? È stata gestita abbastanza bene, l'unico neo è stato lo streaming, perché quanto ricevevo nel mio cellulare non si vedeva bene la diretta. Penso che quello che è stato registrato sia buono, ma al momento non riuscivano bene a gestire la diretta, quindi mi arrivavano, io stavo tweetandoci tutto sostanzialmente, ero lì che facevo foto. Ma guarda, io fondamentalmente ho scoperto che c'era il torneo in corso andando sul forum di Arcade Stream, e c'era scritto tipo: oh ragazzi, tra poco c'è la top 8, e quindi ovviamente mi sono un po' sorpreso. Fortunatamente sono riuscito a vedere tutta la fase finale, almeno la fase finale era molto buono lo streaming, si vedeva anche molto bene. Anche la diretta? Sì, ho visto tutta la top 8 e si vedeva senza problemi. Infatti perché ci siamo spostati in realtà, quindi probabilmente da giù era più facile fare streaming. Sì, infatti me lo sono proprio goduto, si è visto tutto bene, c'è stato forse qualche rallentamento, ma poi si vedeva benissimo che ero soddisfatto di questa cosa qua. la finale, non ne parliamo della finale di Tarzan, non abbiamo detto niente. Sì. Voi ci avete giocato contro i Tarzan? Sì, io no, perché il giorno dopo che c'erano i casual gaming, io ho detto, vabbè, ci giocherò oggi, visto che non ho avuto l'occasione ieri. Invece no, come è entrato all'Art of Gaming, questo prende e va dritto verso il cabinato dove c'era Street Fighter 4 al momento, gioca per 3 ore di fila, quando è il momento di andare se ne va, senza neanche salutare, tra l'altro. No, non è vero, assolutamente, non è successo così. I Tarzan non ha giocato il giorno dopo, però durante il torneo sì, era lì che faceva caso, io ci ho giocato. Ho giocato tipo 5-6 partite, poi ho lasciato il posto perché c'era, come puoi immaginare, la fila. Assolutamente è fuori scala per quanto mi riguarda. Cioè, quando giochi con lui ti rendi conto che non sai assolutamente niente, che tutto quello che puoi fare è spostarti. Perché assolutamente noi siamo abituati a giocare anche un pochino, no, parliamo un po' a livello casual, no? Online, così. Siamo abituati un po' a pigiare, un po' a fare le mosse. Che ci piacciono, che non ci piacciono, a muoverci. Ecco, lui appena vede, appena capisci il tuo movimento, quello che tu sei abituato a fare, sei finito, morto, non giochi più, non ti puoi più muovere. Non è che te lo fa fare, lo fa whiffare, poi ti punisce, non ti fa nemmeno iniziare. E non sai neanche modo a spiegarti perché, insomma, differenza magari di Chofu o di Atsushi, che erano un bel po' più gentili. Itazan era più lì per picchiare. Infatti si è visto, anche cioè, la finale è stata abbastanza a senso unico. Sì, secondo me, no. Secondo me è stato un problema tecnico nella finale, perché Atsushi aveva appena finito la finale dei Losers, non ha fatto nemmeno alzarsi per un sorso d'acqua, fare un qualsiasi cosa di diverso, si è trovato direttamente Itazan. Ma infatti ho notato che anche vedendo lo streaming, cioè le partite si susseguivano a un ritmo elevatissimo, anche la finale è iniziata subito. Esatto, quello che dico, si è neanche alzato, è rimasto proprio lì seduto, c'hai il Tatan contro, vinci 5 partite. Mentre magari Itazan si era fatto il resto del torneo, poi si è un attimino di calma. Ma lui era la persona più zen del mondo, cioè lui era lì, tranquillo, mentre eravamo tutti eccitati, emozionati, no? Bello, si sente che gioca Virtua Fighter, non l'avevo mai vista tutto il mondo, lui era lì come se fosse... mi stavano dicendo che stava facendo Chofu, mi stava cercando di dire che lui ne fa più o meno, se non una settimana, uno di 2 settimane di tornei grossi con 60-70 persone. Quindi stiamo parlando di persone che un certo tipo di stress non lo sentono più ormai. Vabbè, quindi per concludere alla fine Itazan con usava Shundi, giusto? Shundi, sì. Sì, esatto. Uno Shundi veramente forte. Sì. E si è portato a casa il montepremi, anche gli altri due giapponesi lo sono presi tutto loro. No, no, il Montepremi era per tutti i primi 8, quindi anche i francesi e il norvegese Chief Guti sono riusciti a portare a casa un po' di soldi. Odio completamente giapponese, in realtà non avevamo molti dubbi una volta che abbiamo saputo che c'erano 4 giapponesi. Ho detto, vabbè, loro hanno il podio, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Non c'era un grandissimo dubbio. Kingo è stata la sorpresa, secondo me, perché Kingo a un certo punto durante le top 8 abbiamo iniziato a guardarci in faccia e dire: oh, può vincere, ce la può fare. A me è piaciuto molto, ti ripeto, da quello che ho visto. No, hai visto bene, perché meno male. Ha giocato in maniera splendida, le sue partite della top 8 sono state le mie preferite. Kingo che tenta di tirar su dei match contro Chofu, è stato bello anche perché eravamo lì. Almeno personalmente tutto, poi sono andato proprio da Kingo, gli ho fatto i complimenti proprio di cuore, me la sentivo, lui è stato si vedeva che era estenuato, era contentissimo di dove è arrivato, di quanto noi eravamo contenti per lui. È stato veramente bello, anche umanamente parlando, veramente spettacolare. Tutti però erano... Kingo è anche l'unico giocatore a cui Itazan ha chiesto di fare del free play prima del torneo. Sì, davvero. All'occhio lungo Itazan. Ma semplicemente perché quando ho finito il torneo a Cannes sono stati Itazan primo, Kingo secondo e Cry il terzo. Cray che questa volta non è andato proprio benissimo, ad era un pochettino triste, infatti diceva: ragazzi, facciamo subito un altro torneo che devo riprendermi. È vero, Cray, a me è sembrato strano che non ci fossero il top 8, Cray, Marley J e CD, però alla fine se ci si pensa la top 8 è fatta di 8 persone, non è che ci possono andare tutti, e quindi è giusto così. Crai mi ha veramente sorpreso, ma anche Marley e Gide. Marley sembra che non è neanche riuscito ad arrivare nella doppia eliminazione, aveva il pool talmente difficile che l'hanno fatto fuori lì. Poi ho letto che c'erano delle teste di serie praticamente. Sì, eravamo sui dati. Sì. Io per esempio ero con CBTOX ed eravamo praticamente quelli più forti nel nostro girone, abbiamo avuto partita facile con tutti gli altri, era sicuro che saremmo passati, ma perché noi avevamo fatto top 8 a Khan, quindi era ovvio che ci avevamo passato. Sì, hanno diviso tutti i giapponesi, hanno messo più o meno quelli che a Khan sono arrivati primi, quindi Mister, Godella, Shide, Cifutti. Io ad esempio ero con Shide e Cifutti nel pool. Gli altri ragazzi del mio pool erano uno che usava Pai completamente a caso e mi ha battuto, usava Unicorn e basta, Cifutti e Gide. Cifutti e Gide non li avrei potuti battere, proprio so, conosco i miei limiti e lì non ci arrivo, però Unicorn e l'altro decisamente, tanto che ho iniziato il torneo facendo un 3-0 liscio contro questi Pai. Non so neanche il nickname di questo ragazzo, che era, tra l'altro era gentilissimo. Sembra che mi stia parlando male, ma non è così. Semplicemente non giocava tanto bene. Io ho giocato peggio perché ho perso, però non giocavo. Fatto sta che gli faccio un 3-0 e studio, dico, ah, ok, vai, è fatta, facile, questa ce l'ho. Secondo match mi dà un colpo, mi colpisce una volta, dico, ok, è finita, basta, ho perso, e lì mentalmente no. E ho perso, e sono riuscito veramente a perdere, non è stato smettere di imparare, cercare di entrare, niente. Mi ha portato via quel match, sono rimasto lì seduto, è arrivato Unicorn, hanno fatto esattamente la stessa cosa, non c'ero proprio più con la testa. E lì veramente è bellissimo vedere un filmato su YouTube in cui c'è Unicorn che posta il suo incontro contro il Doc e si sente la voce di Godel in sottofondo che gli spiega cosa fare. Quindi mi sta praticamente di andare a vedere questo filmato bellissimo in cui si vede tipo, vai tranquillo, non è successo niente, prendi spazio, e in risposta il Doc va, fa un dash, cioè che dare un colpo, e ovviamente si prende questa schiaffone fortissimo di Wolf che lo manda a terra con una violenza mai vista prima. No, ma la cosa bella è che io, dopo aver perso con quella Pai, mi sono reso conto di essere entrato in pappa, cioè proprio ho detto, no, ciao, è finita. Quindi, siccome sapevo di dover giocare, sono andato subito a cercare Godella, gli ho fatto, Simo, fammi un po' di coaching, ti prego, se non devi giocare, perché sto perdendo, non riesco a pensare. Allora mi sono messo dietro e ho iniziato a parlarmi, ma in realtà non... Cioè, purtroppo... non sentivi praticamente. No, lo sentivo, sì. Lo sentivo, ma purtroppo le mani vanno da sole, cioè... Il mio obiettivo la prossima competizione sarà superare Unicorn, superare chiunque non conosca il gioco quanto me, a livello teorico. Che, insomma... Non è facile. Infatti, no, perché poi ogni tanto leggo qualche topic così su Virtua Fighter. Di solito leggo Mister, cioè mi sembra che a livello teorico mi sembra messo bene, no? A livello teorico direi che io sono secondo solo a Godella. Godella ha veramente le capacità di uno scienziato pazzo nell'analizzare e smontare e fare reverse engineering su tutto il sistema di gioco. Mentre un giocatore normale si ferma a scoprire come attaccare, come difendere una cosa, non lui cerca di scoprire anche perché quella cosa funziona in quel determinato modo e trova i metodi per poterla analizzare e testare. Sì, Godella ha fatto tantissimo per la comunità. Io mi stavo chiacchierando con Itadan durante il torneo e mi ha detto che è rimasto veramente sorpreso dalla conoscenza teorica del gioco. Non si aspettava che in Europa il gioco si conoscesse fino a questo punto. Poi c'è chi non si mette in dojo come me e c'è chi si mette in dojo come Mister Godella, che ottengono infatti i risultati. Però Godella com'è che è andato praticamente? Lui è arrivato, il pinato di me è arrivato top 16. Ah, perso contro Kingo poi, devo andare a vederla, dovrebbe essere, c'era lo streaming di quello, non mi ricordo. No. Era in una postazione non streamata, io ho visto la partita lì, però lui mi diceva fammi coaching, per favore fammi coaching, dopo che avevo perso 10 anni di vita con Maki de Sushi, ero lì che dicevo quel che cercavo di potergli dire, ma il punto è che lui era spaventato da King, questo si è proprio sentito nella partita, lui l'ha messo chiaramente, il problema è che dicevo sì, ma io non sapevo cosa dirti perché lui faceva le scelte giuste. non era, non è che stavi scegliendo di andare a suicidarti, stavi semplicemente facendo le scelte che non andavano bene per quello che faceva lui, perché lui mischiava talmente bene il suo attacco che sembrava quasi che ti leggesse nel pensiero. Poi c'è anche da dire, secondo me, che siamo andati noi tre italiani perché siamo quelli più pazzi, sostanzialmente, andare a partire a Londra o per andare a Cagliari per poi andare a Londra. Cioè, vuol dire che c'è tanta passione per il gioco. Sì, sì, sì. Però non parti di me. Allora, io adesso direi che farei una pausa, così sento se ha registrato quello che ci siamo detti finora, perché sennò questa qui è una prova. Eccoci tornati dopo questa piccola pausa in compagnia del solo mister, che dopo purtroppo l'abbiamo perso per un problema tecnico, quindi facciamo parlare un po' mister. Vuoi spendere due parole magari su virtuafighter.it? Sì, allora, virtuafighter.it, che è il blog / sito / community che fa da riferimento appunto a tutti quelli che vorrebbero giocare a Virtua Fighter in Italia. Vi consiglio caldamente di andarci e consiglio anche inoltretutto, per chi avesse Facebook, di andare sulla pagina virtuafighter.it, che si chiama proprio virtuafighter.it, la trovate su Facebook. Tutto quello che viene pubblicato sul sito viene anche pubblicato sulla pagina Facebook, ma non solo, anche tutte le notizie che riguardano la community estera, spesso in articoli in inglese, certo, vengono comunque postate nel sito di riferimento italiano, nella pagina Facebook, quindi avete più o meno un quadro generale di tutto quello che si deve sapere riguardo l'ambiente. Inoltre vi consiglio anche di seguirmi su Twitter, sono MrVF, posto solo ed esclusivamente i tweet relativi a Virtua Fighter o comunque sia strettamente correlati in questo modo. Tra l'altro mi hai detto che su Facebook o sul sito dovrebbero esserci, cioè, lo streaming del giorno dopo, che l'ha fatto Doc, giusto? No, lo streaming è lo streaming della Sega Cup Europe, è stato registrato da Unequal Media, sì, che sì, si è occupato di preparare tutto quanto, e sul loro sito hanno postato anche giustamente tutto il footage dell'evento. Mentre sì, il giorno dopo le partite sono state fatte alla Heart of Gaming, il cosiddetto HOG, dove hanno comunque una postazione di streaming, e il Doc, siccome adora essere al centro dell'attenzione insieme al suo compare francese Segata a San Shiro, Kenshiro, sono andati in postazione, hanno parlato malissimo in inglese tutti e due, però hanno parlato, mentre sullo schermo c'era comunque sia anche partite di giocatori abbastanza importanti come Chofu, Kei Sara, come Cibitox, come Marley J, insomma molta gente che comunque sia ha da mostrare un gameplay elaborato e non semplici 2P come potrebbe succedere invece tipo in Italia, per esempio Canopio pigia sempre 2P, Godella pigia sempre 2P, simpatici che vogliamo salutare. Va bene, allora salutiamo loro, salutiamo anche il Doc, vi ringrazio per aver accettato di partecipare, perché altrimenti non so cosa sarei riuscito a dire data la mia competenza. Siamo noi a ringraziare te per averci dato questa opportunità, perché a noi fa sempre piacere far conoscere il gioco, perché il gioco è bello però bisogna imparare prima a conoscerlo per poterlo apprezzare, e questa è una cosa che deve fare la community. La community ci tiene, quindi se siete incuriositi venite a provare online, dal vivo, come vi pare, noi saremo felici di aiutarvi. Bene, per questa puntata è tutto, vi do appuntamento al mese prossimo, che dovrebbe essere comunque settembre, quando probabilmente uscirà questa puntata. Ringrazio ancora Mister. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Radio.